Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. 41 secondi e 6 decimi al termine, 41 secondi e 6 decimi, Myers in contropiede a realizzare 37 secondi, l'appuntamento con la storia stavolta. L'Aquila bianco-blu lo ha centrato ed è il primo scudetto che si sta avvicinando. 20 secondi al termine, è cominciato il conto alla rovescia e gridano: vinceremo il tricolore. A questo punto avevano per anni, per una vita, detto di non aver mai vinto niente, anzi usando termini diversi, stavolta lo scudetto, avevano già vinto la Coppa Italia, una supercoppa, arriva, è il primo scudetto, 13 secondi al termine. In campo tutti i dirigenti presenti qui al Pala Verde di Villorba, Jaric il fenomeno, pugno alzato, 6 secondi, 5, c'è già l'invasione di campo, attenzione, è andato a zero il cronometro, invaso il campo, è campione d'Italia 99-2000, vince la Sport Week Cup, la Fortitudo Wellington targata PAF. Beh, lo avete capito dalla rievocazione di questo scudetto, il primo della Fortitudo Bologna conquistato nel 99-2000 contro Treviso. Oggi a Olimpia parliamo di basket. Sì, proprio nei giorni in cui la Serie A celebra la grande kermesse milanese delle Final Eight della Coppa Italia, gli dei dello sport ci suggeriscono di scendere in quella Lega 2, girone Ovest, che oggi ha presentato un duello tra due tra i simboli più nobili della nostra pallacanestro. Proprio Treviso, proprio contro la Fortitudo Bologna. Una sfida che oggi magari vale il sogno promozione, ma che appena 10 anni fa, proprio nella stagione 2005-2006, a scorrere gli almanacchi, valeva ancora lo scudetto. E allora basta definire Treviso e l'Aquila, questo è lo stemma della Fortitudo, come due nobili decadute? Beh, direi che questi club che stanno ripartendo dopo diverse vicissitudini societarie sono molto di più sotto i nostri canestri. Ne parliamo oggi con due grandi campioni del nostro basket, uniti da una profonda amicizia e da due destini di fatto intrecciati. Perché Massimo Jacopini, classe 64, guardia tiratrice, e Nino Pellacani, classe 62, ala pivot, sono cresciuti nella Fortitudo, ma hanno vinto uno scudetto, il primo trevigiano nel 91-92, e diverse Coppe Italia proprio con la maglia di Treviso. Chi meglio di loro, quindi, per raccontarci emozioni e ricordi di questa sfida? Beh, allora, Massimo Jacopini, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie. E benvenuto a Olimpia anche a Nino Pellacani. Grazie a te di avermi invitato. Massimo, un cuore diviso a metà, immagino, il tuo e quello di Nino, quando si parla di Treviso e Fortitudo. La Fortitudo è stato il primo amore e quindi il primo amore non si dimentica mai. La Benetton è stata il mio grande amore, nel senso ci ho giocato 10 anni, sono stati i 10 anni, diciamo, della crescita definitiva, nel senso io sono nato in Fortitudo in una squadra povera che mi cedette quando avevo 21 anni a Treviso per ripianare il bilancio perché quello era il destino della Fortitudo di allora. A Treviso sono arrivato nell'85 e la Benetton non era lontanamente parente di quella che poi è stata nei primi anni 90 fino ai primi anni 2000, quindi ho vissuto tutta la crescita, diciamo, della pallacanestro a Treviso. Però questi rimangono comunque i miei grandi amori sportivi. Ecco, e tu, Nino, qual è stata la curva che ti ha amato di più? Quella trevigiana o quella fortitudina? Probabilmente più Bologna, perché a Bologna, col fatto che ci sono due squadre, non so se lo sai, non c'è anche un'altra squadra di pallacanestro, e col fatto che ci sono due squadre la rivalità è sempre stata forte. Io sono sempre stato molto schierato per la mia squadra di appartenenza e quindi sono stato sempre abbastanza detestato dall'altra squadra. Questo chiaramente in città ha avuto sempre un po' di rilievo. Forse le magliette ricorderai, ma ci sono stati dei trascorsi pro Fortitudo e contro l'altra squadra. È immancabile, Nino, da Fortitudino la stoccata alla Virtus Bologna, e va bene. Massimo, senti, tu ricordi invece una sfida in particolare di quando giocavi ancora in Fortitudo contro quella Treviso che sarebbe poi diventata la tua squadra? Il caso strano del destino vuole che io la prima partita in maglia Fortitudo in Serie A l'abbia giocata a Padova, perché ancora il Pallaverde non c'era, contro la Benetton Treviso. E quella è stata la mia prima partita in assoluto in Serie A come giocatore. e come Fortitudine ho perso, quindi la mia prima partita in Serie A l'ho persa proprio contro la Benetton Treviso. Avversari e compagni straordinari con entrambi le maglie, vero Nino? Un nome su tutti, magari tra gli stranieri? Per fortuna il giocatore più forte con cui ho giocato in tutta la mia carriera sportiva ha giocato 2 anni a Treviso con me, che è Toni Kukoč. Diciamo che la Benetton è diventata una grande squadra che poi ha dominato per almeno 15 anni o comunque ha vissuto, ha guardato dall'alto per 15 anni tutta la pallacanestro italiana. Io all'inizio non giocavo in Fortitudo, ma non c'erano giocatori così forti di là. Forse Dale Solomon era uno dei giocatori di una vecchia Benetton che ricordo come un grande giocatore, un gran picchiatore. Gomiti ben alti sotto quei canestri, immagino. E per te, Massimo, rivali da incubo che ancora oggi non ti fanno dormire la notte? Beh, la Fortitudo nel corso degli anni ha avuto grandissimi giocatori che si alternavano nel mio ruolo. Penso a Vincenzino Esposito come uno degli ultimi, e quanto difficile era giocare contro di lui difendendolo e non avendo mai nessun tipo di riferimento che ti dava lui. D'altro conto penso che anche noi siamo stati clienti scomodi, avversari scomodi in quegli anni per tutti, ecco. Senza poi dimenticare anche gli allenatori che si sono seduti su quelle panchine, vero Pellacani? Beh, per la Benetton direi che Piero Scansi, che è stato il mio allenatore nel primo scudetto dell'anno successivo, è stato un po' è diventato un allenatore importante per la Benetton, perché ha portato appunto i primi trofei e ha portato Kukoč a Treviso. A Bologna un allenatore che credo abbia fatto cambiare un po' la marcia alla società, secondo me, è stato Sergio Spariolo. Senti, qualche aneddoto che ormai a distanza di qualche anno puoi rivelarci? Per Scansi era un po' fuori dalle righe, ogni tanto aveva e comunicava delle cose alla squadra un po' particolari. Lui pensa che nella partita chiave della finale scudetto del 92, finito il primo tempo a Pesaro, eravamo sotto di 10, eravamo molto scoraggiati, tutti molto tesi, molto nervosi, ed entra in spogliatoio, entra Piero e dice: ragazzi, perfetto, benissimo così, volevo essere sotto di 10. Che ti lascia un po', però ci ha fatto riprendere coraggio e poi siamo riusciti ad andare a vincere questa partita. Davvero grande psicologo Piero Scansi. Beh, Massimo Jacopini, abbiamo rivissuto il passato, ma quale presente vivono e soprattutto quale futuro aspetta secondo te ora Treviso e Fortitudo Bologna? Treviso è un consorzio di sponsor e sta crescendo tantissimo, ma ha un pubblico fantastico. La Fortitudo ha una tradizione centenaria di una città che vive il pallacanestro. Di sicuro alla Serie A mancano Treviso e Bologna, nel senso mancano queste due società storiche che fanno parte della storia degli ultimi 30 anni della pallacanestro in Italia. Quindi l'augurio è quello di rivederli presto in Serie A. La realtà probabilmente ci dice che dobbiamo aspettare un po'. Si dovranno strutturare entrambe prima di fare un salto e tornare a essere una squadra professionista di Serie A. Fra poco, dopo una breve pausa, parleremo proprio delle prospettive di questi due club. Intanto grazie a Massimo Jacopini e Nino Pellacani per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per la chiacchierata, ha fatto molto piacere. Grazie Nino. Grazie a te per l'invito e un saluto a tutti. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. 6 secondi, subisce il fallo. Davide Bonora dovrà tirare dei liberi che possono valere una intera stagione. Esattamente, uno di questi chiude la partita. Dopo questo 6-1, la Benetton Treviso mette le mani in tasca e non tocca nessuno. Davide Bonora col tiro libero che regala probabilmente lo scudetto, il secondo nella storia di Treviso. Davide Bonora che il secondo lo segna anch'esso e non c'è più da commettere fallo. La commozione per Davide Bonora. C'è il tiro di Myers, è finita, la Benetton è campione d'Italia. Abbiamo celebrato prima uno scudetto della Fortitudo, ma ben quattro sono stati i tricolori di basket che Treviso negli anni passati ha vinto in finale contro l'Aquila. Insomma, ce n'è abbastanza per parlare di vere e proprie dinastie cestistiche contrapposte. Pur nelle vicissitudini dei due club, Treviso, che ha visto interrompersi il sodalizio con la famiglia Benetton, la nuova Fortitudo, rinata nel 2013 sulle ceneri della vecchia gloriosa società. Proprio per parlare di presente e futuro di questi due club, è oggi ospite di Olimpia il presidente della Pallacanestro Treviso ed ex giocatore biancoverde Paolo Vazzoler. Presidente Vazzoler, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti voi, buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Presidente, se ricordo bene, la sua, quella di fine anni 80, è stata la generazione che ha preceduto la grande Benetton Treviso, vero? Beh, punto più realistici. Qualcuno in un libro ha scritto che siamo la generazione che ha collegato la pallonista, cioè il vecchio pallone di cuoio cucito esternamente, al pallone da basket vero e proprio. In effetti i primi allenamenti li facevamo anche nei campetti in asfalto all'aperto, poi arrivano i palazzetti e arriva il basket a Treviso rilevante, perché Treviso, ricordiamoci, è rimasta una città di provincia con un abitante relativo e per anni invece è stata protagonista come le migliori capitali europee. È stata una trasformazione molto radicale. Poi il legame che sembrava indissolubile con la famiglia Benetton e tutto lo sport trevigiano proprio a partire dal basket. Ma era tutt'uno in realtà, e forse per molti anni qualcuno si è anche seduto sul fatto che non c'era bisogno di fare null'altro, perché ci pensava la famiglia Benetton a tenere alto il vessillo dello sport Treviso. L'ha fatto nel basket, l'ha fatto nel volley, l'ha fatto anche nel rugby. Quando Benetton ha deciso di lasciare, shock, e se vogliamo l'inedia, tutti gli apparati fino a prima non necessari ha generato il nulla assoluto, perché il palazzo fondamentalmente a Treviso aveva costruito la famiglia Benetton e da piccola città in provincia, ripeto, aveva fatto investimenti tali da portarsi a giocare contro Barcellona, Real Madrid, CSKA a Mosca e quindi contro le metropoli europee. Quindi di fatto l'aveva avuto tutto preparato, tutto pronto, pagato, e quella chiave di tutto, da una famiglia quale ha detto, ha fermato ogni altra iniziativa locale. E è stato il problema che abbiamo vissuto noi quando siamo ripartiti. Ecco, dopo quell'addio, quattro anni fa, com'è avvenuta la ripartenza? Ma noi abbiamo alzato le mani dicendo siamo pochi, un po' pazzi, anzi forse decisamente pazzi, abbiamo lasciato che il cuore e l'entusiasmo governassero il nostro fare e agire e ci siamo messi a fare la prima conferenza stampa in piazza dicendo abbiamo bisogno che questo progetto diventi di tutti. Noi ci facciamo paladini di questa voglia di pallacanestro, amore di pallacanestro, siamo stati incredibili nel raccontarlo alle aziende che ci hanno supportato all'inizio e poi è stato un contagio positivo. Carriera bella forse è stata quando l'intera città si è tassata, la chiamo così, facendo una sottoscrizione popolare per più di 70.000 euro, con più di 800 persone che hanno versato pro quota 100 euro affinché la pallacanestro continuasse. Quello è stato il gesto forse più profondo, perché la gente ha capito che questo progetto poteva essere ciascuno a modo suo proprietario di questa storia, di questo ripartire, ed è servito. E oggi come siete strutturati? Sono più di 100 le aziende che tra consorziati e sponsor ci supportano. Qualche volta invidio chi ha una proprietà filantropa, come esisteva nella mia generazione, in cui un magnate entrava e non si preoccupava dello spendere. Qui in realtà noi sappiamo benissimo quanto è lo spendere che avremo durante l'anno e dobbiamo giorno per giorno andare porta per porta a raccontare una storia, continuare ad essere credibili, investire moltissimo sui giovani. Abbiamo rilevato una squadra di ragazzi minor dotati, stiamo supportando anche il basket in carrozzina, facciamo anche beneficenza ad Onlus, organizzano spettacoli, anche se non siamo così ricchi, per far capire che in realtà la pallacanestro vale come aggregazione. Poi la domenica al palazzetto è un momento di festa, è un momento conclusivo, ma c'è una valanga di cose che facciamo prima, durante, che forse conta anche di più. È un momento sociale della città, questo sì. Allora, intanto un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione e grazie a Paolo Vazzoler, presidente della Pallacanestro Treviso, per essere stato oggi nostro ospite. Grazie a voi, grazie per l'attenzione dimostrata. Buona serata a tutti. dal presidente al general manager di Treviso. E allora, gran finale di questa puntata con uno che con la maglia biancoverde e con quella dell'Olimpia Milano è diventato di fatto uno dei giocatori più vincenti del nostro basket. Benvenuto a Olimpia, Riccardo Pittis. Grazie mille, buonasera a tutti. Riccardo, abbiamo rivissuto passato, presente e futuro di questa sfida, ma certo vedere questi due club, Treviso e Fortitudo, ancora in Lega 2, fa ancora oggi un certo effetto. Fa un po' effetto indubbiamente pensare a Treviso e Bologna in questo momento in un campionato quando una volta ci si giocava a scudetti piuttosto che finali di Eurolega. Il livello è ovviamente diverso. Forse è banale dirlo, ma è diverso e obiettivamente non è così alto come forse la storia di queste due squadre meriterebbe. Però, ci ho detto, è altrettanto vero che è un livello che è un po' lo specchio del nostro basket, in assoluto anche del livello più elevato, cioè della Serie A, che ha avuto chiaramente un abbassamento in termini di qualità, soprattutto legato a un fattore economico che è poi il fattore che ha segnato anche il destino delle due società di cui stiamo parlando. Tanti e tosti, Riccardo, se ricordo bene, gli avversari in maglia Fortitudo che in carriera hai sfidato con la maglia di Treviso, vero? Ne hanno avuti parecchi i ragazzi di Bologna che sinceramente non mi facevano dormire sonni tranquilli. Inizierei da un amico e un compagno di squadra nazionale che era Carlton, poi ci aggiungerei Gregor, Giacomo Galanda, Dominic Wilkins che è stato veramente un giocatore incredibile, difficilissimo da marcare, e tanti altri che hanno fatto un po' la storia di quella squadra che sappiamo ha avuto vari campioni. Nonostante questo, però, molto spesso abbiamo sorriso noi alla fine, quindi quello mi fa star bene quando penso alla Fortitudo. Oggi l'Aquila e Treviso già puntano alla promozione in Serie A. Sono sogni troppo grandi, visti i rischi passati? Che ne pensi? Sì, è vero, è bello magari per il tifoso poter pensare l'anno prossimo calcare di nuovo il campionato di Serie A, quindi tornare un po' ai fatti del passato, però obiettivamente non so se augurabile farlo in tempi così stretti, proprio perché l'impegno economico da un campionato all'altro è esponenzialmente superiore, quindi davvero forse è quasi auspicabile paradossalmente un consolidamento, quindi magari un periodo, chiamiamolo di rodaggio, in una serie che peraltro è comunque bella, comunque molto seguita, che sta avendo successo, quantomeno in termini di pubblico, piuttosto che fare un salto che davvero potrebbe destabilizzare. Prima è necessario avere un periodo di consolidamento proprio per mettere le fondamenta per poi poter costruire una base più solida per affrontare un campionato che indubbiamente è molto dispendioso in termini economici. Allora, staremo a vedere. Intanto grazie a Riccardo Pittis per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie mille, a presto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.